24 mattino. Volevo lanciare un allarme. Attenzione, tenete d'occhio i centri commerciali, perché stanno alzando i prezzi, se ne stanno approfittando. In un momento di crisi dove tanti non lavorano, tanti hanno problemi, visto questo problema del coronavirus. Buongiorno dottor Spezia, niente sarà come prima, a partire dai prezzi degli alimentari nei supermercati, perché adesso stanno cavalcando l'onda della crisi, le persone devono mangiare, vanno a fare la spesa e hanno aumentato tutti i prezzi ed è chiaro come la luce del sole. Il punto è che per comprare 5, e dico 5 arance in un supermercato, le ho pagate 5,80 euro. Io faccio parte di un'associazione di laboratori di analisi privati accreditati col pubblico, quindi di fatto siamo servizio pubblico. Non si capisce come mai il Ministero abbia interessato solamente pochi laboratori pubblici e non abbia eventualmente chiesto l'aiuto anche a quei laboratori privati accreditati, quindi in regola con i requisiti, che potevano effettuare questo genere di esami. Ed ecco, ecco le vostre voci. Alcuni di voi, insomma, gira qualche giorno questa storia dell'aumento dei prezzi nei supermercati. Vedremo, sono successi casi, penso a quello di Conad che aveva concesso il marchio a un supermercato in provincia di Torino e gli ha tolto il marchio esattamente per una serie di rialzi ingiustificati. Si parla anche dei supermercati campani, ci sono le segnalazioni delle associazioni dei consumatori, penso che la grande distribuzione debba a questo punto dare qualche spiegazione, qualche indicazione, cioè magari ci sono delle motivazioni buone per le quali tutto questo è successo. Faccio un esempio: difficoltà a reperire alcune materie prime, la famosa questione del lavoro nei campi, c'è meno manodopera e quindi è più difficile trovare frutta e verdura e quindi i prezzi nei supermercati si alzano. Io questo sinceramente non lo so, insomma sono delle spiegazioni che ipotizzo. E però è un tema sul quale tornare, perché no? La questione del coinvolgimento dei privati, io dico sì, non è l'unico caso a dir la verità, Me ne hanno segnalati altri, per esempio dall'Umbria, nei quali appunto laboratori privati che potrebbero fare le analisi, potrebbero fare i tamponi, potrebbero verificare i tamponi, non vengono coinvolti o vengono coinvolti solo marginalmente. Insomma, se abbiamo bisogno di vedere quanta gente si è infettata, sfruttiamo tutte le risorse disponibili. Ed eccoci dunque alla seconda parte di 24 mattino di questo giovedì 9 aprile, sono le 7:19 minuti ed è la parte come sempre dedicata alla rassegna stampa e come sempre iniziamo con un quadro dei titoli. Oh, vi ricordo ovviamente che se volete continuare a mandarci le vostre voci c'è il 349-238-6666, il numero per gli WhatsApp audio, e poi come sempre siamo anche in diretta sulla pagina Facebook di 24 mattino, andate là e ci trovate se ci volete vedere anche. Dunque, il Sole 24 Ore dedica l'apertura a un'intervista realizzata da Gianni Trovati con il ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Il titolo è questo: Gualtieri subito 400 miliardi alle imprese. Si parla dei famosi 400 miliardi di garanzie, appunto, che il governo ha varato con il decreto che tra l'altro questa notte, ve lo do come notizia, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In questa intervista Gualtieri dice, tra le altre cose, che le misure sono immediatamente operative, per quanto in realtà dalle imprese si segnali qualche preoccupazione proprio per quanto riguarda i tempi, no? E la burocrazia per accedere a questi finanziamenti, burocrazia non solamente statale ma anche bancaria. Arriveremo tra poco all'intervista a Gualtieri nel dettaglio. Il giornale parla di poderoso flop a 4 giorni dall'annuncio trionfale di Conte, il decreto liquidità per aiutare imprese e famiglie non è stato ancora firmato. Le tasse arrivano, i soldi no, è il titolo altrettanto polemico della Verità, che anche qua appunto cita la conferenza stampa di Conte. Gli altri giornali sono in realtà più concentrati sulla famosa fase 2, sulla ripartenza, riaprire, come, quando, altri 15 giorni di chiusura per l'Italia è il titolo della Stampa. La febbre del Nord è il titolo della Repubblica sulle insomma, richieste di alcune associazioni imprenditoriali del Nord Italia di ripartire, per quanto con calma, con tutte le misure di sicurezza dovute. Conte frena, vertice con i sindacati e poi con l'Italia, secondo la Repubblica, andrebbe verso il sì al MES, al meccanismo europeo di stabilità. Riaperture mirate per zona, il titolo del Messaggero, sul braccio di ferro sulla fase 2. Riaprire o no, il governo è diviso, titola il quotidiano nazionale. Conte favorevole, Speranza frena. Ripresa diversa in ogni regione, è il titolo del Corriere della Sera. A chiudere, giornali invece che fanno scelte diverse sono per esempio il Fatto Quotidiano, che parla in apertura della zona rossa mancata e dell'indagine di due procure, quella di Bergamo e quella di Milano. Ovviamente la zona rossa mancata è quella di Alzano e Nembro. Il Manifesto, che titola "Non è una crociera, che cosa è successo?", è la stessa scelta editoriale che fa il Riformista di aprire su questo tema. L'Italia non è un porto sicuro, con l'emergenza coronavirus il governo blocca lo sbarco di decine di migranti salvati in mare dalla Alan Kurdi, equiparandoli ai croceristi. La destra gongola, ma apre al permesso a tempo dei braccianti stranieri. Questo è il titolo del Manifesto sulla decisione presa ieri da quattro ministri in merito appunto al dichiarare l'Italia un porto non sicuro. Infine Libero, le case di riposo eterno, una strage prevedibile, il tema appunto è quello delle proprio delle case di riposo che lungamente abbiamo trattato nei giorni scorsi. Ovviamente tutti i giornali dedicano spazio in prima pagina e hanno tra i titoli "Il ponte sul fiume Magra crollato ieri", ed è da qua che partiamo e oggi ci prendiamo finalmente un po' di respiro dalle vicende di Covid-19 per trattare di una questione tipicamente italiana. Allora, la ricostruzione migliore mi pare che la faccia il Corriere della Sera, pagina 29, sui fatti in sé. Poi andremo invece su quello che succede dal punto di vista, insomma, dei controlli, di chi li doveva fare, di come dovevano essere fatti. E Antonella Baccaro, a pagina appunto 29 del Corriere della Sera, che ci racconta di questa vicenda. I timori del sindaco in cinque lettere all'ANAS e il gestore che rispondeva "non ci sono criticità". Ieri che cosa è successo? Dunque, ormai lo sapete, è crollato un ponte vicino ad Aulla, il ponte della Caprigliola cosiddetto, 52 metri di lunghezza, 5 arcate, e di fatto sono rimasti in piedi solamente i pilastri ed è venuto giù tutto il resto. Dunque, 5 lettere nelle quali il comune segnalava la propria preoccupazione circa lo stato del ponte, a cui l'ANAS faceva seguito con varie rassicurazioni. Il sindaco inizia a scrivere il 16 agosto del 2018, siamo a 2 giorni dal disastro di Genova e chiedo una verifica strutturale di ponti e viadotti sulle strade statali. L'ANAS arriva e inizia ad occuparsi del ponte solo dal novembre del 2018, quando riceve in consegna il manufatto dalla provincia. I primi interventi manutentivi iniziano nel 2019, con cadenza trimestrale. In più, sopralluoghi dopo ogni segnalazione del comune. Ma il punto è che cosa scrive l'ANAS. In sostanza, scrive l'ANAS che non ci sono problemi strutturali su quel ponte. Il sindaco continua a scrivere, manda 5 lettere, la risposta di ANAS è sempre la stessa: il viadotto in questione non presenta al momento criticità tali da compromettere la sua funzionalità statica. Sulla base di ciò non sono giustificati provvedimenti emergenziali. Ci pare che invece, francamente, la funzionalità statica del ponte evidentemente avesse qualche problema. Qual è la questione più generale? La questione più generale è che, come al solito, in questo paese si pensa di varare una legge, di istituire un'agenzia, di istituire un database e poi non succede nulla. Ce lo racconta perfettamente Maurizio Caprino a pagina 12 del Sole 24 Ore. Monitoraggio rete a zero, la mappatura non esiste. E guardate che la storia, ancora una volta qua, è una storia di acronimi di agenzie create ex novo, dopo il crollo del Ponte Morandi, acronimi di database nei quali dovrebbero confluire tutte le informazioni e nei quali confluisce pochissima informazione, e di fatto una mappatura che non esiste. Ed eccola qua. Probabilmente, scrive Maurizio Caprino, l'imbarazzante vicenda dei controlli sul ponte collassato ieri ad Albiano Magra non è frutto di una svista isolata, ma di un sistema che non funziona nemmeno dopo i tragici crolli degli ultimi anni. Lo ricordano altri episodi minori di questi giorni: il cedimento di un ponte sulla provinciale sarda gonnesa Nebida, il sequestro di due cavalcavia sull'A20 Messina-Palermo. E lo spiega la tormentata storia delle contromisure che si sta ancora cercando di mettere in atto dopo il crollo del ponte Morandi. Era ottobre 2018, quando il decreto Genova istituiva d'urgenza l'ANSFISA, super agenzia di controllo con poteri e responsabilità estesi alle condizioni strutturali delle opere, e l'adottava dell'AINOP, il maxi archivio che di esse dovrebbe contenere tutto, dal progetto ai risultati dell'ultima ispezione e addirittura ai dati dell'eventuale monitoraggio in tempo reale. Morale? L'ANSFISA, si chiama così, scusate, sembra... Avete presente Aldo, Giovanni e Giacomo quando fanno i sardi, più o meno, insomma, sembra quella cosa là. Comunque, la sfisa non opera ancora, è stata molto rallentata, come ha dimostrato il polemico addio del suo primo direttore. L'INOP esiste, ma largamente incompleto, come il Sole 24 Ore ha denunciato più volte. Spesso ci sono solo i dati anagrafici delle opere e non quelli sui controlli. E qui entriamo, ci dice Caprino, in un paradosso creato dalla lunga partita sulla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia. Come a tutti gli addetti ai lavori era chiaro sin dal decreto Genova, nel database ci sono dati su controlli praticamente solo per le autostrade a pagamento, perché i gestori delle autostrade sono quelli che hanno i soldi per mettere in campo i controlli, e probabilmente quelli fatti da Autostrade per l'Italia, perché deve, insomma, no, rispondere un po' a quello che è successo con Ponte Morandi, sono i più puntuali e i più precisi sui viadotti. Dall'ANAS dettagli ancora non ce ne sono. Ne vogliamo mettere un'altra? Come si fanno i controlli? Si parte da una situazione nella quale ogni gestore fa da sé? Da un anno il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sta lavorando a dettagliate linee guida, da un anno, che avrebbero dovuto essere votate nella seduta del 28 febbraio. Arriva Covid-19, passa tutto in cavalleria e probabilmente, ci dice Caprino, si finirà a dopo l'estate. E dunque, segnali, se volete, di normalità dall'Italia, per così dire. Vi voglio portare, prima di andare alla pausa e poi passare anche alle notizie che troviamo oggi su Covid-19, sulla questione del coronavirus, su una vicenda che spesso abbiamo trattato qua in rassegna stampa, molto se ne è occupato Alessandro Milan nella sua trasmissione e oggi tornerà a farlo, ed è la vicenda di Marianna Manduca. Qual è la vicenda di Marianna Manduca? Ve lo ricordate? Marianna Manduca era stata uccisa dal marito, il fratello di Marianna, Carmelo, aveva adottato i figli, e a un certo punto una sentenza della Corte d'Appello di Messina del marzo del 2019 imponeva alla famiglia Calì la restituzione del risarcimento ottenuto dai tre orfani di femminicidio in primo grado. Perché? Perché diceva, in sostanza, era un delitto che non si poteva evitare. Loro questo risarcimento lo avevano richiesto e ottenuto perché? Perché, nonostante le numerose denunce di Marianna, insomma, lo Stato sostanzialmente non era intervenuto. La Corte d'Appello di Messina aveva deciso che, insomma, questo delitto era inevitabile e quindi il risarcimento l'avrebbero dovuto restituire. Ebbene, la Cassazione ha accolto alla fine il ricorso degli orfani, dice non fu un delitto inevitabile perché Manduca aveva, Marianna aveva ucciso, aveva denunciato 12 volte il marito e dunque questi soldi del risarcimento non andranno restituiti. Una buona notizia e una pausa. Mattino. Io sono un direttore tecnico di una piccola azienda che fa diagnostici clinici. Allora, la cosa importante comunque non è tanto la sensibilità, che va bene, forse non si riuscirà adesso ad avere una sensibilità intorno al 100%, facciamo che sia anche un po' più bassa, ma l'importante è la specificità, cioè al limite io devo prendere qualcuno che ha gli anticorpi come se non li avesse, ma non posso permettermi di prendere uno che invece non ce li ha e dire che ce li ha. Devono arrivare i soldi alle imprese subito, subito, immediatamente, Europa o non Europa, l'ha capito o no? Perché la politica continua ancora, ovviamente quella, in questo caso il governo, ad usare la fanfara della più grande manovra del dopoguerra, eccetera, eccetera. Quando la realtà è che lo Stato italiano non ha i soldi, demanda ancora una volta il tutto alle banche e ci si arriva e ci si muove inesorabilmente verso la soluzione della corona patrimoniale, Covid patrimoniale, chiamatela come volete. Eh no, dai, la patrimoniale no, La patrimoniale no. Anche se qualcuno ne dibatte, inizia a sentirsi sotto traccia questa storia della patrimoniale. Sul fronte dei soldi, servono i soldi subito? Sì, sì, ha perfettamente ragione, ha perfettamente ragione. Mi pare, senza voler, per così dire, difendere il governo che di certo non ne ha bisogno, mi pare che il ministro Gualtieri se ne renda perfettamente conto. Poi bisogna vedere l'attuazione pratica delle cose. Lo dico perché in questa intervista di oggi al Sole 24 Ore, a pagina 3, parla esattamente di questo. Ovviamente si parte dal tema dell'Eurogruppo, e però c'è anche questa questione: quanti sono i finanziamenti effettivamente attivabili quest'anno? È una delle domande di Gianni Trovati, e dice tutto. Tutti i 400 miliardi di garanzie sono già attivati, ma soprattutto sono già attivabili, ma soprattutto c'è il tema di quanta burocrazia statale e bancaria deve attraversare un'impresa per poter avere quella liquidità che le serve, quei soldi che le servono per poter pagare dipendenti e fornitori. Fornitori che a loro volta hanno dei dipendenti che saranno da pagare. E dunque, su questo Gualtieri risponde: il decreto sulle garanzie per i prestiti alle imprese è autoapplicativo, non richiede provvedimenti di attuazione o altre lungaggini burocratiche. SACE e le banche stanno già lavorando nella fase operativa, i collegamenti informatici, i protocolli e la modulistica, tutti molto semplici, saranno pronti a breve, dice Gualtieri. Torneremo a questa intervista a Gualtieri anche sulla parte dell'Eurogruppo tra poco con il nostro direttore Fabio Tamburini, ma intanto, insomma, qua ci sono questioni che vengono poste per esempio dalla Stampa a pagina 3, la quale ci racconta con Alessandro Barbera e con il suo dossier sui prestiti alle imprese che ci vogliono 3 settimane per l'istruttoria. Gli imprenditori attendono e chiedono notizie sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del decreto, nella speranza di poter entrare in banca. Problemi risolti, si affrettano a spiegare a Palazzo Chigi, ma appunto la preoccupazione in realtà è che per ottenere quel denaro ci si metta molto di più. Si sta parlando molto in queste ore del come e quando ripartire. Anche qua prendo dal Sole 24 Ore, c'è questa lettera lettera inviata dalle imprese del nord che fanno pressing, le Confindustrie del nord che fanno pressing sul governo, se ne parla da pagina 5 a pagina 9. Il pressing qual è? Il pressing è per far sì che quantomeno si ragioni su questa fase 2 e si inizi, come dire, a definire qual è la strategia per riaprire. Riaprire dove c'è sicurezza è l'appello del nord produttivo nel racconto di Luca Orlando. Sono le Confindustrie regionali di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto per un'agenda di riavvio. Se il blocco prosegue, il motore rischia di spegnersi per sempre. Il tema è un po' questo, perché sì, è vero, c'è bisogno di liquidità, ma c'è anche bisogno di produrre per rimanere su mercati internazionali nei quali i nostri concorrenti restano, le aziende concorrenti degli altri paesi restano e le nostre aziende in questo momento non ci sono. Un piccolo segnale arriva su questo fronte, per esempio, da Milano. Siamo a pagina 10 del Corriere della Sera e il Corriere della Sera ci racconta che, come raccontavamo prima, i lavori per la metro 4 di Milano stanno riprendendo. Ovviamente le misure di sicurezza ci sono e tutto quanto, e però insomma stanno riprendendo. I tentativi di riscossa, racconta Pierpaolo Lio appunto sul Corriere della Sera, partono da sottoterra. Milano modello Wuhan, primi approcci della fase 2 che verrà. Sotto le strade ancora semideserte, la città che scalpita e fatica a star ferma prova a rimettersi in moto. Il test sarà sulla M4, il maxi cantiere della nuova linea metropolitana che taglia in orizzontale la città dall'aeroporto di Linate a est. Dopo 2 settimane di blocco totale si riparte e si sperimenta il lavoro ai tempi del coronavirus. L'annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Beppe Sala. I primi 200 operai sono già tornati in 19 dei 56 cantieri della linea e poco più del 15% della forza lavoro pre-pandemia, spiega Guido Mannella di Salini in Pregilo, presidente del consorzio MM4. Ancora non si scava però, le immense talpe meccaniche usciranno dal letargo solo da mercoledì prossimo per tracciare gli ultimi chilometri di gallerie dove correranno i futuri treni automatici. Una ripartenza graduale, ma una ripartenza che c'è. A segnalare ancora una volta questa necessità di ripartenza, ma soprattutto l'avere una strategia per questa ripartenza, insomma, c'è questa intervista realizzata sempre al Corriere della Sera, pagina 11, col presidente di Assolombarda, Bonomi, il quale dice, insomma, la prima cosa è avere i dati a disposizione che finora il governo non ha condiviso, abbiamo solo dati aggregati, poi bisogna mettere in campo metodi di diagnostica precoce del contagio e abbiamo i mezzi per farlo, infine servono i dispositivi di protezione. Dati, diagnostica e dispositivi. Questa è la strada, dice Bonomi, per ripartire appunto. C'è tutto il fronte delle inchieste e non solo di quelle. Qua vi porto sul Fatto Quotidiano, a pagina 5, dove si torna sulla questione di Alzano, la questione di Alzano Lombardo. Ieri avete sentito, ne abbiamo parlato lungamente alle 8:45, anzi se volete andatevi a risentire il podcast della puntata di ieri di 24 mattino con l'assessore Gallera su cosa non ha funzionato esattamente ad Alzano, perché in questo momento, come ormai ben sapete, c'è uno scontro aperto tra la regione Lombardia e lo Stato, che a volte torna un po' sotto traccia, a volte si riapre, su chi effettivamente potesse e dovesse fare una zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro. E qua la tempistica diventa fondamentale, perché insomma, se a Codogno con un paziente infettato e accertato si è praticamente fatta la zona rossa immediatamente, ad Alzano e Nembro questa cosa non è stata fatta. 5 ore da questo intervallo temporale parte la procura di Bergamo, racconta Davide Milosa, per fare luce sui motivi che hanno reso l'ospedale di Alzano Lombardo un micidiale vettore per la diffusione del Covid-19 e per capire quali possano essere state le responsabilità. Il tema qual è, ancora una volta, è quella per esempio della sanificazione del pronto soccorso e dell'ospedale di Alzano Lombardo, dove a Codogno ci sono voluti 3 giorni per la sanificazione, per far riaprire l'ospedale. Ad Alzano Lombardo la chiusura è durata 2 ore e 2 ore è durata la sanificazione. Come capite, c'è una netta differenza che va segnalata. Il Fatto Quotidiano intervista anche il presidente di Confindustria Lombardia, Bonometti. Confindustria, come sapete, un po' sotto accusa in questi giorni proprio dalle parti di Bergamo per aver spinto per tenere aperta l'area, e Bonometti dice: guardate, quando noi dicevamo teniamo aperto, la Lombardia non ci ha mai detto di no, anzi era perfettamente in linea con noi nelle riunioni che abbiamo avuto con Gallera e Fontana. E tutto questo lo trovate sul Fatto Quotidiano. Cosa ancora di piccoli elementi da segnalare? Il tema delle, visto per muoverci un po', dalla questione lombarda, fa bene, con anche polemicamente, La Verità a pagina 7 con Francesco Borgonovo, a mio giudizio, a segnalare che sì, ci stiamo concentrando molto sulla Lombardia per quanto riguarda anche le residenze per anziani, la quantità di vittime che c'è all'interno di queste residenze, i problemi che ci sono, e però bisogna ricordarsi che tutto questo sta avvenendo anche in altre regioni. Casi se ne sono segnalati in Toscana, se ne sono segnalati in Piemonte, se ne sono segnalati in Emilia Romagna. Quello è veramente un buco nero sul quale, come vi raccontavo, il Quotidiano Libero per esempio ha aperto la questione delle case di riposo. C'è stata strage nelle RSA di tutta Italia, scrive Francesco Borgonovo, ma nel mirino finisce solo la Lombardia. Qua c'è chiaramente una volontà di difendere in parte quello che è successo in Lombardia. Detto ciò, è oggettivamente vero. In una RSA di Bucine, Arezzo, ci sono 25 anziani infettati, tutti malati di Alzheimer, ha scritto per esempio Open. Ci sono anche 17 dipendenti risultati positivi al virus e un bilancio di 5 morti. A Cingoli, vi ricordate, ne avevamo parlato, in provincia di Macerata, ancora la metà di marzo, nella RSA comunale gestita da una cooperativa, ci sono stati 3 morti, tanto che il procuratore capo Giovanni Giorgio ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo aggravato e lesioni colposi. Sono solo 2 esempi di quello che sta succedendo in tutta Italia all'interno delle RSA, come spesso poi da questi microfoni abbiamo raccontato. Cos'altro ancora vi voglio segnalare molto rapidamente dal Messaggero a pagina 30 in cronaca di Roma. Sappiate che domenica e lunedì i supermercati rimarranno chiusi. Io qua, secondo me, ci sarà da aprire una discussione, perché ancora una volta il tema è il rischio di affollamento fuori dai supermercati nel momento nel quale li chiudi per 2 giorni. Cioè, le ordinanze iniziali prevedevano l'apertura nella mattina di domenica e di lunedì, anche nei festivi in sostanza, quindi Pasqua e Pasquetta. Si è deciso sostanzialmente nel Lazio, ma anche in altre regioni, che i supermercati rimarranno completamente chiusi domenica e lunedì, con il rischio ovviamente che di qui ai prossimi giorni la gente si affolli fuori dai supermercati, evidentemente. E a chiudere, sempre una pagina del Messaggero, pagina 15, su un tema poco affrontato finora dagli altri dai giornali: l'Africa come bomba d'orologeria, i blocchi sono impossibili, solo 10.000 positivi, ma nelle baraccopoli è difficile misurare l'entità del contagio. Lo scrive Franca Giansoldati, pagina 15 del Messaggero. Il traffico. E siamo con il nostro direttore del Sole 24 Ore della agenzia di stampa Radio Coro, Fabio Tamburini, come tutti i giovedì. Fabio, buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Allora, inizierei dall'apertura del Sole 24 Ore, che è questa intervista che Gianni Trovati ha realizzato con il ministro dell'economia Gualtieri. Una parte ne abbiamo letto poco fa, insomma, queste rassicurazioni che arrivano alle imprese dal lato della liquidità, no? Dice: il decreto è autoapplicativo e quindi questi soldi arriveranno subito, anche se mi pare che le preoccupazioni dal lato delle imprese permangano. Incrociamo le dita, Nel resto del giornale lo raccontiamo con dovizia di particolari. Dice il ministro, 400 miliardi arriveranno entro l'anno. Ma speriamo che vada proprio così, le incognite non mancano. Intanto il Consiglio dei Ministri che ha deciso la liquidità a disposizione delle imprese è stato domenica e il testo finale del provvedimento è arrivato soltanto nella tarda serata di ieri. Non era mai successo che ci volessero tutti questi giorni per produrre il testo definitivo. C'era anche, e lo abbiamo riscontrato, una grande irritazione del Presidente della Repubblica perché questo testo non arrivava. È un testo importante perché mette le imprese nelle condizioni di bussare alle porte delle banche e le banche nelle condizioni di capire come devono fare per distribuire questi quattrini. Speriamo che vada tutto bene. Purtroppo la burocrazia è in agguato, molti passaggi sono tutt'altro che chiari. L'impressione generale è che non sarà così facile. Vediamo adesso che cosa accade. Certo che il generale delle aspettative è un impegno verso il paese importante, molte imprese, molte aziende sono allo stremo, cassa integrazione e disoccupazione sono dietro l'angolo, speriamo che questa iniezione di liquidità davvero funzioni, perché in caso contrario la situazione diventerà sempre più difficile. Ovviamente, di qui l'altro ragionamento, Fabio, no? Perché sì, va bene, c'è la questione della concessione di liquidità che consente alle aziende di respirare, tirare il fiato, appunto come si diceva, di pagare dipendenti e fornitori, almeno per il momento. Dall'altra parte c'è tutta la questione che ha a che fare con la ripartenza, la cosiddetta fase 2, come attivarla, quando attivarla, con quali misure di sicurezza, qua la discussione è aperta e c'è anche, come dicevamo, la presa di posizione delle Confindustrie del Nord, no? Che dicono dove c'è sicurezza dobbiamo ricominciare ad aprire per non perdere anche noi i nostri mercati di riferimento. Intanto mi fa piacere sottolineare, prima me l'ho dimenticato, che il testo completo del provvedimento sulla liquidità lo trovate sul sito del sole24ore.com. Detto questo, hai ragione, il problema della ripartenza è quello all'ordine del giorno. Certo, bisogna stare molto attenti a non compromettere quanto finora è stato fatto, i risultati che sono stati ottenuti sull'emergenza sanitaria bloccando il paese, ma il problema della ripartenza si pone perché un vecchio detto che mi fa piacere ricordare, chi non lavora non mangia, e qui questo il paese non è che si autoalimenta, e quindi un blocco così totale e per un tempo così lungo non ce lo possiamo permettere, non si riesce poi a capire chi ci farà mangiare la micchetta, come si suol dire, e quindi occorre porsi il problema di partenza con tutte le precauzioni sanitarie del caso, ma il paese non può permettersi un blocco totale che duri ancora più a lungo, anche perché gli altri paesi non lo stanno facendo. E paesi come, a noi peraltro molto vicini, come Germania, Francia, Spagna, non hanno bloccato proprio niente e quindi stanno guadagnando le loro imprese fette di mercato, quote di mercato, che poi alla fine quelle italiane stanno perdendo e probabilmente dopo è complicato riprenderle. E di conseguenza non possiamo permetterci una penalizzazione così forte. Sì. Come racconta Manuela Perrone, Giorgio Pogliotti, si lavora a un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri con i settori che si potrebbero riattivare. Mi pare interessante su questo fronte, a pagina 5, anche il pezzo di Marco Morino, che ci racconta un po' come, perché il grande tema non è la questione solo della riapertura delle fabbriche, che si può fare ovviamente adottando, no, tutte le misure di sicurezza, ma il tema è anche il trasporto delle persone al lavoro, perché poi il rischio di contagio è forse più elevato là, e si sta ragionando su autobus a noleggio per i lavoratori, ci racconta Marco Morino. Ti porto a questo punto sulle questioni europee, questioni europee che oggi ci tornerà a riunirsi l'Eurogruppo. Si tornerà a ragionare di Eurobond, si tornerà a ragionare di utilizzo del meccanismo europeo di stabilità, con, a quanto pare a questo punto, i Paesi Bassi che sono rimasti quasi da soli nel richiedere condizionalità più forti nel caso di utilizzo del meccanismo europeo di stabilità. Lo racconta bene Beda Romano, è per una questione di politica interna, perché nel 2021 si dovrebbe votare, quindi il Premier vuole far vedere che è un po' più duro degli altri, mi sembra di capire. Oggi vedremo se andrà davvero così, c'è la verifica forse finale in sede Eurogruppo. Certo, di solito l'Olanda alza la voce quando la Germania dietro le quinte suggerisce. Speriamo che alla fine prevalga il buon senso, in caso contrario per l'Unione Europea può essere davvero il capolinea. C'è una lettera promettente da questo punto di vista, promettente nel senso che alla fine l'Europa una strada la troverà, che pubblichiamo oggi su Sole 24 Ore, è una lettera della Lagarde, la francese che ha sostituito Draghi al vertice della Banca Centrale Europea. Questa lettera è chiara, è un appello alla solidarietà, speriamo che alle parole seguano i fatti. Fabio, ti vorrei portare, vedremo ovviamente che cosa succederà oggi, tra l'altro segnalo agli ascoltatori che molto se ne parla anche nell'intervista realizzata da Gianni Trovati con il ministro Gualtieri su questo tema, il quale Gualtieri dice che la creazione di debito pubblico europeo e quindi debito pubblico condiviso, a intendere gli eurobond o qualche altra forma di mutualizzazione del debito, è già presente nei trattati, questo dice Gualtieri. Ti vorrei portare, ecco, su quel che abbiamo in prima pagina come foto ed è quella di questo ponte sul Magra crollato, precipitato, e con questo racconto che fa Maurizio Caprino, del quale abbiamo dato notizia poco fa, insomma, di un sistema di mappatura che ancora non funziona. Purtroppo, nonostante le promesse, la caduta del ponte di ieri è la prova provata che questa mappatura o non c'è stata o non è stata fatta come doveva essere fatta. Questo è un problema che per il Paese può diventare drammatico, e sottolineo l'aggettivo drammatico, perché vedete, buona parte delle infrastrutture italiane sono state create, ponti, autostrade, sono state create tutte nello stesso momento temporale, e cioè nel dopoguerra. Siccome i materiali, come gli uomini, non sono infiniti, è chiaro che a questo punto è passato quel mezzo secolo abbondante per il quale queste strutture, il problema della tenuta di queste strutture si terrà, e questo non è un problema del ponte di Genova piuttosto del ponte che è crollato ieri, ma è un problema che riguarda, ripeto, una parte importante delle infrastrutture italiane che è stata fatta nello stesso periodo e che quindi ha lo stesso arco di vita, e di conseguenza a questi ponti, al crollo di questi ponti, ne seguiranno inevitabilmente altri. Ecco, un modo per far ripartire il Paese, per dargli una spinta, è investire nelle opere pubbliche, è investire per esempio nella manutenzione dei ponti, nella loro eventuale ricostruzione, perché è da lì che può nascere è anche da lì che può nascere una spinta allo sviluppo. È arrivato il momento di farlo. Grazie Fabio Tamburini, grazie al nostro direttore del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Cor. Fabio, ci sentiamo giovedì prossimo. Bene, chiudo con una battuta, consentitemela: meno reddito di cittadinanza e più investimenti per fare una radiografia e, dove è necessario, rifare le opere pubbliche necessarie. Grazie Fabio, quindi a giovedì, ciao. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ovviamente ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella. Ebbene, parleremo proprio di Europa, scatenatevi se volete, 349-238-6666 per i messaggi WhatsApp audio, e poi a partire dalle 8:20 anche l'800-24-0024, appunto sul tema dell'Europa, il debito in comune, le tensioni, la Germania, l'Olanda. A dopo.